Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Qualcuno ieri in quel minuto poco più concesso a Totti da Ranieri ha rivisto il fantasma dei 6 minuti di Rivera a Città del Messico nella finale col Brasile. Io invece ieri sera ho rivisto in Cavani un grande colpitore di testa che si chiama Pierino Prati, che segnava proprio così, saltando frontalmente rispetto al pallone e mirando con la fronte l'angolo opposto, oppure lanciandosi a tuffo, allora si diceva a volo d'angelo, così come ha fatto Cavani sul terzo gol, su quell'assist di Hamsik morbidissimo che ha ricordato, sì, quello, i palloni di Rivera. Insomma, un grande centravanti e un grande Napoli, anche se poi rivedendoli quei 3 gol, soprattutto i primi 2, ho pensato anche al povero Prandelli e al fatto che a lasciar colpire in totale libertà quei 2 palloni di testa sullo 0-0 e sullo 0-1 sia stata la coppia centrale della nazionale, Bonucci-Chiellini, e anche questa secondo me è una riflessione da fare in prospettiva, perché poi quando la difesa della nazionale scricchiola, quello passa oggi il convento grosso modo. Allora, in attesa dei vostri consueti interventi del lunedì, cominciamo a ripassare attraverso le voci dei protagonisti quello che è avvenuto di più significativo, e la copertina va certamente a Cavani. Veramente una gioia bellissima, perché vedere questo stadio così, questa gente che ti spinge sempre in avanti, che canta di questa maniera, godendo una vittoria che veramente l'abbiamo meritata, perché abbiamo fatto una grande gara. Guarda, è bellissimo, veramente mi viene la pelle d'oca, sono molto contento e molto felice per questa vittoria. Prima di tutto sono contento per quel momento che sto vivendo con la mia famiglia. Stiamo aspettando l'arrivo di quel piccolino che veramente lo aspettiamo da tanto tempo, quindi siamo molto felici. E bueno, dopo tutte le altre cose che arrivano, diciamo che si raggiungono e ti danno, diciamo, la forza per andare avanti. Sullo sfondo c'era la colonna sonora del pubblico napoletano in delirio, surdato, innamorato. Napoli sogna e ha tutto il diritto di sognare i momenti come questi. Gigi Del Neri invece ha vissuto ieri sera una serata molto difficile, ma stamane molto peggio. È stato colpito da un lutto di famiglia, è morto suo fratello, leggo da un'agenzia appena arrivata, Rudy Del Neri, e lo ha comunicato il sindaco di Aquileia, cioè la città dove risiede la famiglia di Del Neri. L'allenatore della Juventus stamattina aveva abbandonato improvvisamente i lavori che sono in corso a Roma, la riunione tra FIGC, arbitri e rappresentanti di società di Serie A proprio evidentemente perché era giunto dalla notizia di questo grave lutto familiare. Torniamo a Napoli e al commento di Mazzarri a questa grande vittoria della sua squadra. Vinta, coraggio, e ci metterei anche il gioco, perché al di là del risultato è un piacere vedere come abbiamo costruito i primi 2 gol, ad esempio l'ultimo che probabilmente piace alla gente perché è un contropiede. A me è piaciuto i primi 2 gol proprio sulle fasce, insomma, 2 cross, 2 gol in fotocopia, uno a destra e uno a sinistra, e questo è un grande motivo d'orgoglio per me, perché questi ragazzi, insomma, hanno memorizzato anche certi meccanismi, ed è un piacere vedere proprio questo tipo di calcio, ecco, sinceramente. Io questi giocatori gli farei un monumento, io sono troppo legato, quando l'allenatore fa l'allenatore, quando un gruppo risponde così, in 1 anno e 3 mesi ci siamo trovati a fare questo tipo di partite, non solo una volta, avere questa anche continuità di risultati. Certo, si può sempre migliorare. Non è successo tutto a Napoli ieri, anzi i 30 gol che di questa giornata sono stati mica tanto equamente distribuiti, nel senso che sono stati 2-0-0, però c'è stato anche questo 4-4 di Milan-Udinese, sfida a spettacolo per antonomasia, perché nelle ultime 13 partite queste 2 squadre tra loro hanno segnato 58 gol, che è una media di 4,5 a partita. Ieri poi hanno esagerato addirittura, pensate, mi segnala Franco Piantanida che l'ultimo 4-4 a San Siro del Milan risale addirittura al 1952 contro l'Atalanta. Se invece parliamo di un bilancio del girone d'andata, I 40 punti del Milan capolista rappresentano il punteggio più basso da quando c'è il campionato a 20 squadre. Non solo, ma in questa stagione c'è lo scarto minore tra la prima e l'ultima a fine girone d'andata sempre, che è di 26 punti contro il 33 dell'anno scorso. Dunque è innegabile che ci sia un maggiore equilibrio, poi come sempre l'equilibrio non è sinonimo di qualità nella maggior parte dei casi, e in questo in particolare proprio non direi. Se torniamo per un momento a Napoli-Juventus, questa è la prima tripletta in Serie A per Cavani, che è arrivato a quota 13, è capocannoniere insieme al magnifico Di Natale, che si sta confermando come l'anno scorso. E un'altra suggestione è che l'ultima tripletta alla Juventus di un centravanti napoletano era stata di Careca nel 5-3 a Torino del 1988. Cambiamo capitolo, sempre ripeto, introducendone di un po' variegati per in attesa poi dei vostri commenti. Il secondo capitolo è, a parer mio, quello di Ranieri. Non sono stati pochi ieri. Non sono state poche le perplessità suscitate dagli allenatori, almeno a mio modo di vedere. Il Brescia stava vincendo 2-0 a Firenze e Beretta ha sostituito nell'ordine, nell'ultima mezz'ora, uno dopo l'altro, Caracciolo, Eder e Diamanti, che erano i tre giocatori offensivi. Mi sembra un segnale abbastanza chiaro che non a caso la Fiorentina ha colto. Poi è ovvio che non c'è la matematica delle conseguenze, ma insomma potrebbe accadere. Nel caso di Caracciolo, poi ho letto stamane che c'era questo giocatore era debilitato perché è andato in campo con 38 di febbre, non ce la faceva più, ma è ragionevole pensare che gli altri due fossero invece più sani. Ranieri, a parer mio, l'ha fatta leggermente più grossa con il cambio di Menes dopo l'espulsione del portiere, per poi arrivare al capolavoro finale con l'inserimento di Totti. Allora io sentirei tutte e due queste spiegazioni, partendo proprio dal cambio finale, dall'ingresso a fil di sirena di Francesco Totti. È vero, io pensavo che mancassero 3 minuti più il tempo di recupero e gli ho detto mi basta una giocata, insomma, lì dovevamo tentare il tutto per tutto. Lo so che uno non si possa sentire bene, ma insomma credo sempre nel colpo del campione. Sì, qua poi ovviamente le opinioni si può sempre vedere a destra o di sinistra, credo sempre, o da sinistra, credo sempre nel colpo del campione, è una buona, è una spiegazione accettabile. Dall'altra parte non si vede perché uno che è stato seduto 90 minuti dovrebbe fare il mago Zurlì solo quando viene chiamato e tocca un pallone, quel pallone deve trasformarsi in oro. Il fatto che un allenatore non sia ben documentato sul tempo che manca alla fine, anche questo qualche perplessità secondo me la può generare, perché credo che l'orologio ci sia anche a Marassi e comunque dovrebbero esserne dotati sia l'allenatore stesso che eventualmente i suoi non pochi collaboratori in panchina. In precedenza sulla prima delle stavo per dire amnesie, ma è molto più grave, sul primo degli erroracci di Juan, che è quello che ha cambiato il corso della partita, anche perché ha costretto il portiere all'espulsione, Ranieri aveva tolto Menez anziché, a parer mio, uno dei due attaccanti, o Boriello o Vucinic. Sentiamo perché. Ho lasciato due che mi potevano garantire il contropiede, la praticità, perché i tre centrocampisti già stavano correndo tanto. Borriello è l'uomo che mi finalizza tutte le azioni, mi fa tenere palla, e Mirko era l'uomo che ti risolve la partita con un colpo. È stata una decisione sofferta, proprio perché anche Menez è giocatore che ti fa respirare la squadra, ti porta sulla palla, si fa vedere, salta l'uomo. Erano decisioni come voltavo male. Sì, forse così, no, lui stesso, no, elencando le virtù di ciascuno dei tre, è lui stesso che dice che ha fatto una puttanata in realtà, no? Mi par di capire, è una seduta di autocoscienza questa intervista finale di Ranieri. Poi per carità, quelle sono decisioni che vanno prese in un attimo, ma se c'era un giocatore che aveva il cambio di marcia, che il pallone all'attaccante residuo lo poteva davvero portare su, che aveva fatto già ammonire mezza difesa della Sampdoria, che in effetti poi è stata espulsa nel finale proprio perché la prima ammonizione era stata per falli su Menez lanciato in velocità. Beh, insomma, io credo che quel cambio sia stato qualcosina più che discutibile. Lo stesso del Neri, anche se ovviamente per ragioni, ripeto, familiari, per la notizia che ho appena dato prima, non mi sembra il caso di dilungarsi troppo in questa giornata. Beh, insomma, lo stesso del Neri, schierare, qualcuno ha detto che comprando Toni la Juventus non ha pensato che un tronista in casa l'aveva già, che era Mau, che era Mauri, e quindi due potevano essere troppi, ma non solo in rosa, ma due in campo contemporaneamente con Del Piero fuori, in una partita come quella di ieri, in cui presumibilmente devi anche provare a giocartela per evitare che siano loro ad assumere troppo l'iniziativa. Ma insomma, anche quella è stata una scelta di quelle che si possono discutere. I capitoli da introdurre sono ancora tanti. Per esempio, tutto sommato, il risultato più sorprendente di ieri è la sconfitta della Lazio in casa con il Lecce, perché era il Lecce era tra l'altro reduce da una sconfitta casalinga nel derby con il Bari non vinceva da qualche secolo e aveva invece battuto il Lecce in casa sua. Insomma, si pensava che, anche se di partite facili soprattutto in questo periodo ne esistono poche, ma insomma che la Lazio avesse l'occasione di continuare la sua marcia, e invece è arrivata la peggior sconfitta dell'anno, sia per il risultato in sé che per la prestazione veramente negativa dei laziali. Sentiamo la spiegazione di Reie. Primo tempo l'abbiamo completamente regalato, ci si muoveva poco senza palla. È chiaro, se tu trovi squadre come Lecce che viene qui, che si chiude molto bene, ti chiude gli spazi, diventa facile giocare per loro e poi ripartire e metterci in difficoltà sulle ripartenze. Allora, quando non c'hai movimenti senza palla, diventa difficile proporre azioni offensive in modo particolare con una squadra che resta chiusa. Poi secondo tempo siamo partiti molto bene, abbiamo fatto un 15-20 minuti, abbiamo creato tre opportunità da gol, sull'uno pari ci sono capitati due palle, non l'abbiamo messa dentro. E poi loro hanno fatto delle ripartenze solo sui calci d'angolo, e lì abbiamo commesso degli errori. Abbiamo subito sei contropiedi molto pericolosi e su situazioni di palla inattiva a nostro favore. Questo denota che non c'è la mentalità e l'attenzione giusta. Adesso è ora di dare spazio ai vostri interventi, ma tenendoci per più tardi almeno ancora un paio di conversazioni di allenatori che meritano, secondo me, un'ottima ribalta per questa stagione. Uno è certamente Donadoni per il lavoro che sta facendo a Cagliari, e un altro è Malesani per quello che sta facendo a Bologna. Ha chiamato Pino da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, signor Garanzini, volevo dire una cosa. Tutti quanti esaltano Del Neri che sia un allenatore che sa far bene la zona difensiva. Io vorrei vedere uno che la sa fare veramente bene, chi è, perché se prende 7 gol, poi tutti i gol che ha già preso la Juve, con una difesa così imbarazzante, come lei accennava prima, della nazionale, veramente non so da Juve dove può arrivare. Poi se dai via giocatori come Balzaretti, prendi Grigara, Criscito e compagnia bella, Palladino, Giovinco, Miccoli, Marchionni, e potevano prendere Cassano, secondo me la Juve non va molto lontano. Secondo me manca proprio il fosforo, come diceva ieri sera il signor Sconcerti, nella dirigenza. Cioè, cambiano uomini, cambiano qua, ma i risultati sono sempre quelli. Grazie. Grazie a lei. Non vedi tutto questo con l'accento Del Neri, nel senso che Del Neri al massimo può rispondere di queste ultime due sconfitte che sono effettivamente traumatiche e che probabilmente chiamano in causa anche delle, non probabilmente, certamente chiamano in causa anche delle responsabilità di conduzione, perché quando perdi 4-1 in casa dal Parma e subito dopo ne prendi altri 3 a Napoli, è evidente che non può essere colpa solo di qualcuno o del destino avverso, anche se poi alla Juventus è girata abbastanza storta in queste due giornate. Ma insomma, realisticamente ci deve essere qualcosa in più. Ma lei però è partito da troppo lontano, è partito da Balzaretti addirittura, e non mi pare che... Io sono d'accordissimo, perché se c'era un giocatore da non mollare era Balzaretti. Se a distanza di anni ti riduce a dover riprendere grosso in quel ruolo, è evidente che qualcosa prima è sbagliato. Però non sono errori imputabili a Del Neri. Luca Treviso, buongiorno. Buongiorno dottore. Ascolti, io vorrei riallacciarmi a quello che diceva lei all'inizio riguardo al Napoli, che è giusto sognare. Vedendo il girone d'andata che è finito in questa posizione, fin dove possiamo sognare noi? La ringrazio. noi napoletani, immagino. Ma fin dove non lo so, io dico fino a un piazzamento da Champions, e cioè fino a un posto nelle prime quattro. Questo mi sembra un obiettivo ragionevole. Io andrei per, poi senza escludere performance migliori, intendiamoci, ma senza nemmeno nascondersi il fatto che già piazzarsi nelle prime quattro sarebbe un eccellente risultato. Io guardo la classifica, cerco di immaginarmi la Reale, e cioè con l'Inter a adesso ne ha 29, insomma, direi che i tre in casa col Cesena li fa, e sono 32. Bisogna vedere quanti ne fa a Firenze. Facciamo uno? Facciamo uno vuol dire che l'Inter è già a 33 a quel punto. Io credo che nel girone di ritorno alla fine potrebbe essere un testa a testa Milan-Inter, così a spanne, se l'Inter continua a recuperare giocatori e davvero ci ha rimesso quella convinzione, ma non la convinzione Leonardo, quella convinzione ci ha rimesso i giocatori che hanno fatto fuori Benitez, intendiamoci, o che comunque, se non hanno proprio contribuito direttamente, diciamo che non hanno fatto nulla per evitare quell'esonero, e quindi quelle due davanti direi proprio di sì, a occhio. E poi continuo a pensare che una Roma ben guidata, e quindi guidata in maniera diversa da come è guidata oggi, in queste ultime, perlomeno ieri, sia tuttora superiore al Napoli come organico. Poi sono tutti discorsi, come sempre, da verificare. Vittorio ha chiamato da Parma, buongiorno. Buongiorno, signor Garantini. Niente, io volevo dire, a parte il fatto che secondo me possiamo arrivare finché tiene il fiato a quegli 11 che sono in campo, i titolari, perché grandi riserve purtroppo non ne abbiamo. Però io avevo chiamato per farle una domanda. Secondo lei De Neri non si è fatto condizionare dalla partita con l'Inter, visto che solitamente siamo dei polli di testa e abbiamo visto a Milano che gol abbiamo preso, e ha provato lui a mettere a Mauri e a Toni, perché prima ha fatto ridere il fatto che poi invece di testa ne ha presi tre. È questa la cosa che volevo chiederle. Grazie, assolutamente. Non lo so, è una domanda che andrebbe girata del Neri. A me personalmente la scelta di ieri mi ha stupito, perché adesso, al di là delle battute sui tronisti piuttosto che sui giganti, li chiami come vuole, ma insomma, il 4-4-2 canonico di Del Neri ha sempre previsto sì un centravanti torre, soprattutto alle origini nel Chievo era Corradi allora, però poi un altro giocatore di manovra. In quel primo Chievo era Marazzina, poi ovviamente a seconda delle squadre in cui è stato e delle formule che ha dovuto adottare, ma insomma in linea di massima poi è anche abbastanza abituale giocare quando si gioca con due attaccanti di ruolo, giocare con due attaccanti di caratteristiche un po' diverse. I due di ieri sera hanno caratteristiche simili, tendono a rubarsi gli stessi spazi, tendono a pestarsi un po' i piedi. Poi si potrebbe parlare anche, ieri sera Toni certamente ha fatto più di altri, ma bisognerebbe provare anche a domandarsi in prospettiva che senso possa avere l'ingaggio di Toni così sull'onda emotiva dell'infortunio molto grave a un giocatore completamente diverso da lui come caratteristiche, ma anche come valore in questo momento, o forse anche da qualche anno a questa parte. Sono tutte domande che non credo vadano fatte a Del Neri, o al massimo insomma lui può dare una risposta collaterale, ecco, mettiamola così. Torniamo un attimo a due di quei protagonisti di cui vi parlavo prima. Sentiamo innanzitutto Donadoni. Devo dire che è stata una buona prestazione, questa, al di là del risultato che chiaramente poi fa una grandissima differenza, però è stata una prestazione dove la squadra ha giocato, ha voluto sempre giocare a calcio, ha sempre tenuto palla, ha cercato di costruire, abbiamo creato veramente tantissime occasioni. Sono contento per Robert Acquafresca, che è riuscito a sbloccarsi con due gol stupendi, due gol dei suoi, quindi direi che oggi è stata una giornata positiva, anche con tanta sofferenza, perché poi potevamo chiudere il risultato, non ci siamo riusciti, abbiamo anche corso qualche rischio, però indubbiamente è stata una giornata positiva, molto positiva. Sì, anche perché il Cagliari non solo ha vinto a Parma, ma avrebbe meritato di vincere decisamente più largo. Un arbitraggio disastroso quello di ieri a Parma, che poi ha danneggiato tutte e due le squadre, ma in particolare e per primo certamente il Cagliari, che invece ha vinto lo stesso, che non avrebbe meritato di perdere col Milan, e questo anche va ricordato, e quindi una squadra che è ripartita col piede giusto dopo la sosta, a differenza di altre. Lorenzo ha chiamato da Belluno, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo collegarmi al fatto che diceva poc'anzi riguardo Toni che gioca davanti. Io credo che la differenza ieri sia stata semplicemente, a parte diciamo una netta mattina napoletana, e io sono juventino tra l'altro, la differenza secondo me c'è stata soprattutto nel chi faceva i cross. Io ho notato che Napoli sembra una squadra degli anni 70-80 in cui hanno dei bravissimi ali, fanno dei cross veramente a pennello. Ho visto anche Amsic che ha fatto il cross, prima di fare il cross ha guardato attentamente chi c'era in area e poi ha crossato in maniera direi tecnica eccezionale. La Juventus ha degli attaccanti davanti, ma non si può sperare che solo Krasic butti dentro, che risolva con una serpentina sulla fascia. Diciamo che Krieger è grosso e chiaro è lì sulla fascia, secondo me non merita neanche non merita una squadra a questi livelli. Sicuramente probabilmente sono un po' la frutta e forse farebbero meglio il direttore sportivo Marotta a prendere in considerazione di prendere qualche altro giocatore un po' più di livello. Ecco. Sì, facendo sempre i conti col bilancio, perché mi pare che questo sia uno dei problemi. Io credo che intanto bisognerebbe cercare di, invece di inseguire sempre le chimere di mercato, io credo che, insomma, chimera di mercato, che chimera è Toni, torniamo al punto, no? Cioè perdi Quagliarella e voglio sapere cosa mi rappresenta Toni. Vabbè, e questo è un aspetto. Un altro aspetto è, dicevo, valorizziamo o rivalorizziamo quello che c'è in casa. Cioè, lei sta parlando di Krasic, ma Krasic non dico si è disperso nelle nebbie, ma insomma non mi sembra più il giocatore che aveva incendiato l'entusiasmo ad un certo punto la tifoseria. E quindi magari anche provare per l'appunto, prima ancora di mettere il naso fuori, a vedere cosa si può recuperare in casa ad alto livello. Io ho visto per esempio pagelle molto brutte ieri ad Aquilani, non sono tanto d'accordo. Aquilani è stato l'ultimo a perdersi, ad arrendersi, nel senso che tanto non c'era verso. Anche le sue giocate positive a un certo punto andavano perse perché non c'era, perché era un dialogo con dei sordi, ma non tra sordi però. Pasquale Latina, buongiorno. Buongiorno Garanzini, grazie per avermi chiamato. Senta, io sono un tifoso del Milan un po' controcorrente, nel senso che sono in forte imbarazzo da qualche tempo, sia per tutte le uscite che fa il presidente, sia ultimamente per come viene trattato Leonardo, al quale a mio avviso andrebbe soltanto riconosciuto merito e stima per quello che ha fatto da dirigente, per quello che ha fatto senza la squadra che quest'anno c'ha l'attuale allenatore e i risultati che ha raggiunto, e guardo con molto interesse al rientro dell'Inter in classifica, perché è un uomo che al di là del garbo e l'educazione che sono sempre, le sue interviste sono sempre, come dire, si ascoltano sempre con molto piacere, è un uomo che dico questo dato elementare, uno che parla più di sei lingue tra cui il giapponese, è quantomeno intelligente, quindi gli va riconosciuto qualche attributo. La domanda finale che le pongo è questa: ma il livello del campionato italiano, poi alla luce anche delle statistiche che ha letto all'inizio della trasmissione, che tipo di campionato pone? Lasciamolo perdere, non diciamocelo con le maiuscole, che tanto il livello del campionato più o meno l'abbiamo capito qual è, no? Insomma, non è un campionato, cioè, se parliamo di qualità, e poi se parliamo di emozioni è molto più divertente così che non in altre stagioni. Se parliamo di qualità, no, se la squadra prima in classifica becca 4 gol in casa da un'eccellente squadra, ma di cui però si sanno vita, morte e miracoli, cioè si sa che giocando contro l'Udinese ci sono due pericoli pubblici che si chiamano Di Natale e Sanchez. Beh, insomma, sia pur mancandoti un giocatore come Nesta, credo che la capolista dovrebbe avere le contromisure di partenza, no? Per circoscrivere questo pericolo. Se prende 4 gol è evidente, e parliamo della prima della classe, è evidente che da un punto di vista tecnico il livello del campionato è quello che è. Un allenatore che ha certamente fatto bene, molto bene in questo girone d'andata, e la cosa fa notizia perché insomma, sinceramente non accadeva da anni, è certamente Balesani alla guida del Bologna. Sentiamolo dopo la vittoria fondamentale di ieri a Bari. Siamo molto felici, felici per tutti, per la squadra che ha lavorato tanto e bene in questo periodo, che sta raccogliendo grandi soddisfazioni, per i tifosi che ci sono sempre stati vicini, per il presidente che ci vede per la prima volta e lasciatemelo dire anche per noi dello staff che comunque viviamo anche di queste soddisfazioni. È vero, bisogna ammetterlo che abbiamo lavorato in condizioni un po' così, però non è un miracolo chi lo vive da dentro, perché quando tu hai un gruppo composto così e quindi il merito di chi l'ha composto all'inizio dell'anno, di ragazzi con alti valori, e allora non diventa più un miracolo, sono i giocatori che fanno la differenza. Io secondo me non credo ai miracoli. Da vecchio juventino, scrive Paolo, trova incredibile che un difensore imbarazzante come Chiellini non venga messo in discussione. Beh, insomma, Chiellini ultimamente ha sbagliato parecchio in queste ultime partite, pare non sia al meglio da un punto di vista fisico, che stia un po' stringendo i denti, ma direi insomma che si vede. Cristian da Cosenza, buongiorno. In merito, calcisticamente non mi sono simpatici né Lanieri né Totti, però questa discussione che si poneva sul fatto che un allenatore a 4 minuti alla fine faccia entrare Totti e criticarlo per questo, cioè penso che poi i giocatori devono essere sempre a disposizione e per quanto sono pagati presumo che anche per 2 minuti possano degnarsi di toccare il pallone. Infatti. Poi pensando a quanto guadagnano, quindi voglio dire, mi sembra scandaloso mettere in croce Ranieri, che non mi è simpatico per il suo stile. Spesso e volentieri Totti ho visto fare degli atti vandalici in campo, e quindi penso che non sia neanche un grande campione, diciamo, almeno da questo punto di vista. Lei cosa pensa? Il contrario di lei, grosso modo, senza. Se non il contrario quasi, non è in discussione la prestazione d'opera, tant'è vero che Totti ieri è regolarmente entrato in campo e ha fatto quello che poteva. È una mancanza di rispetto che si è già vista in altri casi e che in altri casi è stata chiamata in causa, quella di coinvolgere in una sconfitta un giocatore di grande prestigio. È un errore psicologico, è un errore di grammatica per il mio. L'ha fatto Allegri con Ronaldinho recentemente, l'aveva fatto lo stesso Ranieri a Torino con Del Piero e Trezeguet, se non ricordo male, contemporaneamente a pochissimo dalla fine, in una partita dei tempi in cui allenava la Juve, lo ha rifatto ieri. Non ha senso, perché da un lato è un po' una mancanza di rispetto, dall'altra è un errore di grammatica, perché un giocatore più è vecchio, oltretutto, proprio più è vecchio, e più ha bisogno di scaldarsi, più ha bisogno di entrare in un'atmosfera. Non sono tutti come Altafini, che era un fenomeno assoluto e si scaldava in un attimo e risolveva le partite, ma era anche un altro calcio, perché stiamo parlando di 35 anni fa circa. E comunque d'accordissimo invece sul fatto che un giocatore possa essere chiamato in causa anche a 20 secondi dalla fine, non a un minuto dalla fine più recupero. Tant'è vero che Totti è regolarmente entrato e trovo che la sua battuta sussurrata a guardaline, ma che comincia adesso la partita, sia stata assolutamente deliziosa e secondo me è la miglior battuta della storia del repertorio di Totti. Luca da Milano, buongiorno. Buongiorno a lei, buon anno innanzitutto. Sì. Volevo chiedere una sua opinione riguardo al fatto del problema, secondo me, della difesa della Juve, effettivamente, e mi ha un po' anticipato, credo, Lorenzo Di Belluno. Vorrei che chiedesse lei, eventualmente a Del Neri, visto che non lo posso fare, se è lui che chiede ai due terzini, effettivamente, ai due terzini esterni bassi, di stare così stretti, cioè stanno in 4, in 10 metri in linea e i tre gol sono praticamente risultati uguali. Abbiamo preso tre gol in modo completamente uguale, e anche il primo di giovedì contro il Parma, cioè l'ala avversaria ha avuto tutto il tempo di stoppare, di mirare, di crossare al centro, cosa che invece per esempio Krasic non riesce mai a fare, deve sempre fare qualcosa in più perché ha la fortuna di essere più veloce, arrivare sul fondo e crossare. Quindi anche appunto la persona di Belluno di prima diceva hanno due fenomeni che hanno fatto dei cross della Madonna e tutto. Non è vero, cioè il problema è che hanno avuto tutto il tempo di guardare, di fare quello che volevano. Quindi siccome lei prima diceva che non si deve chiedere a Del Neri il fatto di aver acquistato Toni o chi altro, mi piacerebbe invece che qualcuno gli chiedesse ma come mai questi due terzini stringono sempre così verso i due centrali? Allora io, centrali. Luca, le ho già detto che oggi Del Neri ha altro cui pensare e altre, e si sta facendo certamente altre domande, perché dicevo in apertura che è dovuto correre ad Aquileia, dove stamane è morto suo fratello Rudy. Ma indipendentemente da quello, io ci andrei sempre pianino su questo genere di responsabilità tattiche, cioè nell'attribuire tutte le responsabilità tattiche a un allenatore e non invece quelle tecniche o tecnico-tattiche al calciatore. Sui cross lei può anche aver ragione. Io però sono rimasto molto più colpito ieri dai movimenti di Cavani in area, soprattutto dal movimento sul primo gol. Cioè il Napoli gioca con una sola punta centrale, che è Cavani, no? Che tra l'altro è una punta mobile, ma non è che ce n'è un altro da marcare in area. Quando arriva un cross, o quando dall'azione si capisce che sta maturando un cross, ce n'è uno da marcare. Quell'uno da marcare ce l'ha da marcare la coppia centrale della nazionale. Lui sul primo gol fa una finta all'indietro, un movimento in avanti, il più vicino dei due che gli è rimasto a 8 metri. Non so, se lei mi dice che il problema è Del Neri che non trova le contromisure sulle fasce, andate avanti così, cosa vuole che le dica? Io penso che il problema sia più quell'altro, a parer mio. Giampaolo, Roma, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Senta, volevo una sua opinione. Secondo me, insomma, l'artefice di questo grande progetto del Napoli, di questo grande miracolo, è Mazzarri. Cioè, Mazzarri ha la capacità di far tirare il meglio a tutti i suoi giocatori. Per esempio Grava, un giocatore che dalla Serie C, ma adesso è diventato indispensabile per il Napoli. Lo stesso Cavani, sì, che sta avendo un rendimento straordinario. Ma il merito maggiore, al di là di Cavani, la Vezia Amsic, secondo me è proprio di Mazzarri. È un gioco straordinario. Non so lei cosa ne pensa. Sì, Napoli sta giocando bene, soprattutto in rapporto alle caratteristiche degli uomini. Napoli ha qualità vera solo davanti. E mi pare che la qualità davanti riesca, non sempre, a Milano no, per esempio, perché a Milano tutti e tre i tenori hanno steccato. No? Quando tutti e tre funzionano come ieri sera e uno poi addirittura è in super serata di grazia, allora lì davanti c'è la qualità. Nel resto della squadra di qualità ce n'è poca e c'è molta applicazione, c'è molto spirito operaio. Mazzarri è stato molto bravo, è molto bravo ad amalgamare queste caratteristiche così diverse e a fare in maniera che la squadra funzioni, pur essendo così diseguale dal punto di vista, per l'appunto, delle qualità tra un reparto e l'altro. Antonio, chiamato da Ascoli Piceno, buongiorno. Antonio aveva chiamato da Ascoli Piceno, ma poi è caduta la linea. Allora, torniamo a sentire qualche protagonista. Beh, certamente l'impresa del giorno l'ha firmata il Lecce a Roma, e allora sentiamo come l'ha vissuto De Canio. Lecce da un mese più a questa parte, che fuori casa offre delle prestazioni all'altezza di quella di oggi. Siamo diventati una squadra un po' più compatta e quindi un po' più solida, che crede molto di più nella possibilità di fare risultato, e quando la squadra è assistita anche da un pizzico di fortuna non è impossibile che possa fare risultato. Con la società c'è sempre stata la massima sintonia. Abbiamo iniziato un percorso insieme di un certo tipo e andremo avanti ancora per molto tempo. Qualche altro numero curioso, per esempio la Fiorentina è arrivata alla quinta vittoria consecutiva in casa, che corrisponde anche alla quinta sconfitta esterna consecutiva per il Brescia. Certo, se si pensa che a un quarto d'ora alla fine il risultato era 0-2 a Firenze, tutto questo risulta abbastanza difficile da digerire per i bresciani. Lorenzo è in linea da Roma, buongiorno. Buongiorno, dottor Ganzini. Dica. Senta, io volevo fare una critica a Ranieri per quanto riguarda i cambi. Non per ieri su Totti, ma proprio lui ci stanno, so, più delle quattro partite, che quando devi cambiare un giocatore o due giocatori, o non fa manco un cambio o se no ne fa due, tre insieme, fa, io non lo so, per me chiari un po' se deve schiari un po' le idee, perché i cambi. Poi per quanto riguarda il ragazzo di prima che parlava dei Totti, pensasse alla squadra sua, questo. Sì, sì, grazie Lorenzo. Cioè, questo, sì, va bene, ci si è capito. Okay, grazie. Senta, no, grazie a lei. Ieri Ranieri ha messo in campo una Roma eccellente, a parer mio. Per fino all'errore capitale di Juan, il primo, perché poi ha pensato di bissare, insomma, fino al primo errore di Juan era stata la miglior Roma di stagione, a parer mio. Ed era una squadra che funzionava perfettamente com'era, senza Totti, con Mexès e Burdisso centrali, andava tutto bene, ma soprattutto c'era, mi sembrava la Roma da rimonta dell'anno scorso, per rotta al massimo dei giri, che raddoppiava e mordeva come i giorni migliori. Poi quell'errore evidentemente ha condizionato la partita e ha creato una situazione di inferiorità numerica. Ecco, da lì in avanti, secondo me, lo stesso trauma, lo stesso shock che ne ha riportato Juan l'ha riportato anche Ranieri. Questa è la sua, mi par di capire, ma certamente anche la mia opinione. Il ripasso, affidato anche oggi come sempre, del 10 gennaio a Nicola Filippone. Sembra ieri. 10 gennaio 1909. All'Arena Civica di Milano si disputa la prima sfida ufficiale tra Milan e Inter, valevole per la giornata d'inizio del campionato. Il successo finale va al Milan, che si impone per 3-2. Il primo gol nella storia del derby della Madonnina lo realizza il centromediano del Milan Trerè II, che vanta il record di aver vinto uno scudetto come portiere nel 1906 e uno da giocatore di movimento l'anno successivo. Tra le reti del primo derby c'è già un gol dell'ex, lo realizza Pietro Lana, uno dei dissidenti che l'anno prima avevano lasciato il Milan per fondare l'Inter, ma dopo pochi mesi Lana aveva deciso di tornare al club d'origine. A proposito di Inter e Milan, in pochi hanno notato un corso e ricorso storico, no? Poi il finale poi è tutto ancora da vedere, ma insomma i presupposti ci sono. Ieri i milanisti hanno come dire, denunciato con uno striscione tutto il loro malumore, sto usando toni sfumati perché lo striscione era veramente osceno, sul passaggio di Leonardo all'Inter, traditore, eccetera, eccetera. C'è un precedente illustre, che non è, sì, che è vecchiotto, ma che non risale poi nemmeno alla preistoria, che riguarda Ilario Castagnier, che dall'82 all'84 allenò il Milan e nell'estate dell'84 passò all'Inter. Passò all'Inter in maniera ingloriosa, perché se non ricordo male all'Inter resistette 8 giornate, 7-8 giornate, qualcosa del genere, fu poi sostituito da Mario Corsi. E quella fu la grande vendetta, no, dei tifosi milanisti di allora, che a Castagnier, pur essendo anni abbastanza avventurati per il Milan, a Castagnier si erano molto... molto affezionati. Io ho la sensazione che la storia di Leonardo andrà in maniera un pochino diversa, ma va anche detto però che quello di allora sì fu un passaggio diretto dal Milan all'Inter, questo non lo è stato, perché lo scorso anno Leonardo è stato licenziato dal Milan, è stato mandato via, e a distanza di mesi mi pare avesse tutto il diritto di scegliere la squadra che gli faceva la proposta migliore. Gianni ha chiamato dalla Svizzera, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, dica. Dunque, io sono un milanista doc, sì. E non sono molto contento dei risultati del Milan di queste due giornate, ovviamente come tutti i tifosi, ma soprattutto... abbiamo fatto dei begli acquisti. Se li avesse fatti Ancelotti, che è riuscito a mandare avanti una squadra veramente con dei rincalzi, escluso Kakà, negli ultimi anni, chissà dove saremmo a questo punto, perché di Ibrahimovic si parlava ancora prima che lo prendesse la Juve, subito dopo, durante lo scandalo appunto del 2006, e così anche per altri calciatori. Noi abbiamo un grande problema, si vede, ieri mancava Nesta, avevamo un Gattuso a mezzo servizio, insomma, nel momento in cui mancano ancora questi vecchi la squadra non gira. Quindi la mia domanda è, a questo punto, l'allenatore quanto incide? Se avessimo, ripeto ancora una volta, Ancelotti, dove saremmo? Grazie. Chissà dove saremo se le rispondono in questo momento i tifosi del Chelsea, forse le rispondono in un modo. In questo momento, fino a due mesi fa, le avrebbero risposto in maniera opposta. Io credo che una cosa è certa, quest'anno Allegri ha avuto la fortuna di poter contare su molti giocatori nuovi e su molti giocatori di grande talento, a cominciare da Ibrahimovic, ma poi passiamo pure attraverso Rubinho, attraverso Cassano, lo stesso Boateng, e quindi insomma, è stato trattato meglio, ecco, mettiamola così, molto meglio Allegri di quanto non fosse stato trattato Leonardo lo scorso anno e l'ultimo Ancelotti, e poi vediamo alla fine faremo i conti e vediamo chi avrà fatto meglio nel famoso rapporto qualità-prezzo. Gaetano in linea da Torino, buongiorno. Buongiorno signor Berardini. Dica. Senta, volevo chiederle una cosa, se lei potrebbe darmi una risposta. Se ieri nella partita Milan Udinese, anche se ci fosse stato Nesta secondo me, ma con la mancanza di Boateng, cioè con la mancanza di tre mediani incontristi, no? Quindi che fanno molto filtro a centrocampo, io sono dell'idea che il Milan 4 gol non li avrebbe presi. Sono di questa idea qua, perché inutile star lì, cioè si è capito il Milan come deve giocare, inutile che abbiamo mandato via Ronaldinho per poi rigiocare con sempre con tre punte di cui tornano poco, o no? Beh, insomma, io credo che Nesta già non dico col bastone o con la dentiera, ma insomma credo che Nesta in età più avanzata dell'attuale, che comunque sono 34 anni, sia comunque preferibile a molti altri, per esempio e senza alcun dubbio a Bonera, pur senza volergli mancare di rispetto. Però è vero che giocando così scoperti contro una squadra, contro Sanchez di Natale, e una squadra che ama giocare e che ama proporsi in avanti, come dicono quelli che parlano bene, sì, secondo me è segno di una partita non preparata al meglio. Poi ci sono problemi di organico, problemi di infortuni, problemi di altra natura, di cui evidentemente bisogna tenere conto, perché se sta cosa la sa lei e la so io, è difficile che non la sappia Allegri, no? Immagino, si parte dal presupposto che anche lui più o meno abbia un'idea di come gioca l'Udinese e di quanto sia pericolosa. Evidentemente il problema è stato da una parte un pochino sottovalutato e dall'altra i cosiddetti interpreti in campo non sono stati lucidi e non sono stati presenti a se stessi come gli era stato raccomandato. Andrea da Como, buongiorno. Buongiorno. Dica. Buongiorno dottor Garancini. L'ascoltatore di prima mi ha preceduto, più o meno l'argomento era il medesimo, nel senso che io ieri ritengo che il Milan, al di là della scarsa cifra tecnica che ha in difesa quando mancano Nesta e Thiago Silva, sia stato purtroppo penalizzato dalle assenze del centrocampo, tant'è che ha dovuto far giocare mediano sulla linea dei mediani comunque Seedorf, che non ha più il passo e non ha neanche l'attitudine, per quanto sia un grandissimo campione. Certo. Per cui niente, mi ha anticipato la domanda di prima. Cambio leggermente per riagganciarmi a quanto lei diceva prima di Leonardo. Io ritengo che Leonardo sia una delle persone più intelligenti che per quanto mi è superficialmente dato da conoscere nel mondo del calcio, abbia tutto il diritto di essere rispettato nelle sue scelte, anche se non me la sento da milanista, in maniera molto simpatica di augurargli buona fortuna nel lavoro. Chiaramente abbia diritto di essere rispettato da tutti. Grazie, dottor Garanzini. Grazie a lei, Andrea, perché questa è il famoso fair play. Queste sono le basi del fair play sportivo. Vorrei ancora vedere che un milanista adesso si mettesse a augurare a Leonardo di vincere il campionato. Questo evidentemente no, ma da lì a chiamarlo per iscritto e coram populo, come è stato chiamato ieri, un signore come Leonardo, beh, insomma, direi che qualifica molto chi ha esposto quello striscione, non so quanto ispirato dall'alto, tra l'altro. Michele da Bari, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Bari. Dica. Senta, signor Garanzini, volevo fargli sempre il mio pensiero per quanto riguarda Cassano. Sì. Io volevo un suggerimento su questo grande fuoriclasse, che io, per quanto mi riguarda, non lo ritengo affatto che sia un fuori classe, cioè lo ritengo più un venditore di fumo o un giocoliere, e non sono, cioè, e non assolutamente in grado di prendere una squadra per mano e portarla chissà dove a conquistare chissà che titoli. Ma guardi, tipo, prendere la squadra per mano, tipo Totti, cioè, lo fa, per quanto mi riguarda è solo un giocoliere, un non giocoliere. So. Sì, ma infatti non è certamente il tipo di giocatore che prende le squadre per mano, non è mai stato, anzi io mi augurerei che, insomma, che non vorrei mai essere nei panni di qualcuno che deve essere preso per mano da Cassano, proprio credo che anche Garrone sarebbe d'accordo su questo. Detto questo, nelle ultime due partite ha giocato sì e no 20 o 25 minuti in totale e ha messo 3 assist vincenti, avendo toccato diciamo 5 o 6 palloni. Allora, non prenderà per mano nessuno, ma metterti la palla su un piede per buttarla dentro, secondo me grosso modo se la cava ancora. Michele, grazie a lei, grazie a tutti gli intervenuti, a Roberto Scaltritti in regia, a Franco Piantanida in redazione, appuntamento a domani.